cosa importa il mio cuore, vivere senza l'amore, perché tu m'hai lasciato, voglio ancora sognare, tanto ancora di te. Perché solo con te posso vivere l'amore, mentre tu sei la vita, voglio vivere ancora. Vivere ancora, perché solo con te posso vivere l'amore, mentre tu sei la vita.